La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:29 primi e 58 secondi e in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast, e naturalmente vi conferma, come facciamo da questa mattina, che nel corso di questa trasmissione, come di tutte quelle della programmazione ordinaria di Radio 24, ogni eventuale aggiornamento della situazione post-sisma, e in particolare, lo sapete, stiamo tutti seguendo con apprensione le operazioni che sono in corso per tentare di trovare superstiti nell'hotel di Rigopiano spianato da questa slavina con un fronte di 300 metri, ovviamente porta i colleghi della redazione giornalistica di Radio 24 ad aggiornarvi in diretta. È qui come la collega Anna, che prego, naturalmente, interrompe tutte le volte che vuoi, non c'è nessun problema. Grazie. Figurati, e grazie a voi per quello che fate. Ultimo avviso per tutti coloro che stanno continuando a scrivere alla versione di Oscar @24.it per candidarsi a intervenire nelle puntate che variamo. Probabilmente già da domani, con coloro tra voi che ci hanno dato la disponibilità per raccontare storie o del fatto che vogliono andarsene, se ne stanno andando o sono andati fuori dal paese per possibilità di formazione e lavoro che qui non trovano, o per coloro che lo hanno fatto e sono tornati indietro. Insomma, l'Italia non per giovani, che grazie alle vostre storie, sono tantissime ormai, e io ve ne sono molto grato di aver accolto l'invito, inizieremo a proporre, ripeto, duplice taglio, non senso di superiorità per chi ce l'ha fatta e se n'è andata, perché non si tratta di descrivere l'Italia come un paese finito, e contemporaneamente non eccediamo con le geremiadi, ma tentiamo di dare un quadro delle tante questioni che si condensano su a scapito di chi è giovane nel nostro paese. Naturalmente avete capito che il limite di età è elevato quando si tratta di giovani nel nostro paese. Sono usciti ulteriormente dati oggi dell'occupazione aggiornati, dai quali vedrete domani in dettaglio che si conferma non solo il fortissimo rallentamento nel totale del saldo tra attivazioni e cessazioni dei contratti dei quelli a tempo indeterminato, cioè siamo a una percentuale che scende del 90% rispetto allo stesso mese del 2015, e siamo, lo sapete, in presenza, nell'intero complesso degli anni del post Jobs Act, della decontribuzione, di meno occupati giovani, mentre soprattutto per gli over 50, che c'è il saldo più o meno di un po' meno di 500.000 in più in questi ultimi due anni alle nostre spalle. Quindi il problema c'è, e come, e per questo abbiamo deciso di chiamarvi ai microfoni per raccontarne i diversi particolari. Ma andiamo al tema del giorno, con un orecchio sempre a quello che avviene nelle zone colpite del sisma. Ed è, mi ha colpito questa vicenda. Noi parliamo di beni culturali, del patrimonio di straordinaria ricchezza, uno dei più densi, intensi e rilevanti censiti dall'UNESCO, come sapete, nel nostro paese, perché in particolare su Repubblica, ma comunque sono usciti i risultati di un bando dei beni culturali che, in applicazione di una legge voluta oramai molti anni fa dall'allora ministro dei beni culturali Giuliano Urbani, non era mai stata applicata. Di che cosa si tratta? Poiché, come sapete, viviamo in un paese in cui la mano pubblica, lo Stato, ha fortissime difficoltà sia in termini di risorse finanziarie adeguate, sia in termini anche di cultura organizzativa e gestionale per la messa a reddito del nostro straordinario patrimonio culturale, musivo, sedi storiche, eccetera eccetera. Due decenni fa oramai l'allora ministro Urbani pensò a una norma che consentisse di aprire bandi perché privati potessero candidarsi alla gestione di un certo numero di questi beni. Stiamo parlando di ville, sedi storiche, castelli, abbazie, eremi, per i quali lo Stato non riesce nell'opera di messa a reddito e di valorizzazione, e perché i privati potessero subentrare. Il limite è alla forma giuridica dei privati, perché stiamo parlando di onlus, cioè di soggetti del terzo settore, quindi vincolati a non poter trarre un lucro da questa attività di gestione. E questo profondissimo limite, voluto per la convinzione che il patrimonio pubblico non debba produrre reddito a privati, ma debba per il privato rientrare nei suoi scopi, se del terzo settore, di valorizzazione di attività sociali e culturali, ma senza produrre un utile, che cosa ha prodotto questo primo bando? Ha prodotto un risultato molto molto insoddisfacente, che si condensa in due numeri. Non voglio diffondermi nei particolari prima di presentarvi gli ospiti e sentire le loro opinioni. Innanzitutto, la selezione che doveva essere fatta dall'apparato territoriale del MIBAC e quindi dalle sovrintendenze di queste opere è stata una selezione estremamente al ribasso dal punto di vista numerico, cioè sono state messe a bando come gestione, con quei limiti per i privati, per la loro forma giuridica che vi ho detto, solo 13 monumenti, e però il bando ha avuto un esito, oltre a essere così ristretto, totalmente insoddisfacente, perché solamente in 7 casi su 13 si sono fatti avanti dei soggetti rispondenti al limite posto dalla legge. Naturalmente, poiché questi siti hanno la caratteristica di essere in condizioni di cattiva manutenzione, essere fortissimamente necessitati di interventi di restauro e recupero, non è un dato che a me lascia stupito, perché voi capite che chiedere a privati, onlus del terzo settore, che nel nostro paese non navigano in ottime acque finanziarie, visto la legislazione di incentivo fiscale non particolarmente generosa per chi destina soldi al terzo settore, assolutamente restrittiva rispetto a quello che capita nella stragrande maggioranza dei paesi avanzati, bene, chiedere a questo tipo di soggetto di investire denaro laddove lo Stato non ne ha, a ritorno zero tranne che di comunicazione e immagine, si è dimostrata, a mio giudizio, una scelta non sorprendentemente sbagliata e deludente nei suoi risultati e nei suoi esiti. Che cosa voglio dire? Che il problema, a mio giudizio, che questo insoddisfacente esito del primo bando, tra l'altro, in 20 anni, fatto seguendo quella possibilità di legge che era stata introdotta dal ministro Urbani, ci consegna un interrogativo. Ma è proprio davvero così sbagliato credere di poter consentire a imprese private, quindi non del terzo settore, imprese che fanno utili, di poter, in cambio di un'azione invigilata, sorvegliata, secondo risultati, procedure tecniche standard che devono rimanere sempre sotto l'autorizzazione e il controllo delle sovrintendenze, ma che sia volta anche a, ottimizzando la gestione e quindi la messa a reddito di questi siti, a darne non solo ovviamente il più allo Stato, ma anche una quota per sé? Qual è l'errore di fondo del estendere questi bandi a delle imprese e non a delle onlus? È un pregiudizio oppure ha degli argomenti seri e fondati questo tipo di discrimine? Altrimenti il risultato si vede. Non ci riesce lo Stato a mantenere, perfezionare e a mettere a reddito centinaia di siti di questo tipo straordinari nel nostro paese? Beh, certo non possono fare quei soggetti del terzo settore che a malapena in questi anni, stante anche che le fondazioni bancarie hanno ristretto molto le erogazioni sul territorio per le difficoltà che hanno con zero dividendi o quasi, o comunque con una redditività molto bassa dalle banche da cui ricavano il più delle loro risorse, ecco che non possono farlo, certo, i soggetti privati sì, ma del terzo settore. Questo è quello che penso io. Forse mi sbaglio, probabilmente sì. Allora sentiamo i due ospiti per fare commentare loro Il limite posto dalla legge allora, il risultato posto da questo primo bando oggi, se sia il caso di cambiare quella legge oppure di confermarla, e in quel caso però ci dicono che cosa non ha funzionato, perché è un allarme molto forte per la nostra incapacità di mettere a reddito e mantenere in maniera ottimizzata il nostro straordinario patrimonio. Allora, i nostri due ospiti sono scelti con criteri diversi, perché la prima ospite che ho scelto è Patrizia Sproni, che è la presidente di Confcultura. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio a voi, grazie a lei. Allora, Confcultura, lo spieghi lei, ma insomma è l'associazione di imprese che si dedicano, sono in questo settore, ma profit però, è vero? Assolutamente, imprese private, esatto. Del settore profit, sì. Imprese che si private di cultura che si occupano e anche di gestione dei beni culturali, naturalmente. E per un altro punto di vista, è con noi Rinaldo Satolli, non è la prima volta che lo chiamo in trasmissione, segretario nazionale del coordinamento della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dei Beni Culturali, appunto. Grazie di essere con noi, Rinaldo. Grazie a lei, buonasera ai radioascoltatori. Allora, Sproni, lei è sorpresa da questo risultato? Che lezioni ne trae? È la legge da correggere oppure c'è qualcos'altro che non va? Oppure è tutto normale e va bene? No, io non sono assolutamente sorpresa e anzi devo dirle che sono sorpresa del fatto, guardando il bicchiere mezzo pieno, che abbiano risposto così tanti. Vorrò poi vedere cosa significa quello che è stato richiesto dal bando, e cioè la sostenibilità del conto economico e finanziario della gestione di coloro che appunto partecipano con veste no profit al restauro, conservazione e poi modello di gestione per questi beni. Sono d'accordo con quello che diceva lei prima. In Italia c'è un enorme pregiudizio nei confronti del settore privato, in tutti i sensi, da sempre: scuola pubblica, scuola privata, TV pubblica, TV privata, come dire, è un refrain che ci accompagna e che accompagna appunto questo forte pregiudizio. Si pensa che i privati sfruttino semplicemente, in maniera, dando a questa parola sfruttare una connotazione negativa, e salvo poi però appunto gridare aiuto, aiuto, non riusciamo a farcela, lo Stato con la contrazione delle risorse non riesce a mantenere questo patrimonio esuberante, però poi dall'altra parte si ha paura che il privato appunto munga la mucca, come si dice, quando poi non c'è nemmeno la mucca da mungere, ecco, questo è il problema. Non vedo perché appunto non può dare la possibilità ai privati di assumersi la responsabilità di questo bene, gestendolo con un'economia, voglio dire, profittevole, senza dare, ripeto, una connotazione negativa a questo termine, e magari, voglio dire, restituendo poi allo Stato questo bene rimesso in piedi e quindi rimesso poi a una funzione pubblica. Peraltro un'operazione di questo genere è stata fatta dal Demanio con l'operazione Valore Italia, dando in concessione fino a 50 anni borghi, dimore storiche e strutture, voglio dire, afferenti sempre ai beni culturali. Sono esperimenti che sono andati a buon fine. Oggi possiamo anche guardare. Perché il Demanio sì? E invece ecco, il MIBAC appunto, no? Perché il Demanio sì e il MIBAC no? Perché, ripeto, voglio dire, la parola cultura e profitto, per la parola cultura, la parola profitto è ancora una parolaccia. Lo vediamo. Lei lo anche sa che ci sono autorevolissimi rappresentanti del mondo, innanzitutto MIBAC e della conservazione del patrimonio, il professor Stefano Setti, sono per tutti, e sì, poi accademici che sono diventati molto famosi in questi ultimi anni, giovani come Tommaso Montanari, che sostengono appunto che il profitto è un uso totalmente improprio del patrimonio pubblico. Il professor Setti sebbe a dire una volta: preferisco sapere, anche se non c'è lo spazio per rendere fruibili a tutti coloro che vogliono visitare i musei italiani tutte le opere che sono nei loro magazzini, che stiano nei magazzini, piuttosto che ci faccia soldi un privato se li vuole rendere fruibili. Queste testuali parole del professor Settis, lei è d'accordo? Ma assolutamente no, non sono per niente d'accordo, questo mi sembra chiaro. Ripeto, i beni culturali sono beni comuni. Io peraltro ho fatto un raffronto né col petrolio né con l'oro, ma con l'acqua, e per me i beni culturali sono esattamente come l'acqua, tutti devono poterne fruire. ma devono poter bere acqua pulita, deve essere facilmente accessibile, ma noi paghiamo la bolletta dell'acqua proprio perché abbiamo un servizio. Così, siccome i beni culturali devono essere un servizio nei confronti della comunità, quel servizio, voglio dire, deve essere pagato. Anche per poterli restituire alla comunità, mantenerli per la comunità, conservarli per le generazioni presenti e future. Ma senza soldi non si va da nessuna parte. Allora, io credo che dobbiamo trovare una via di mezzo virtuosa fra appunto lo sfruttamento, che nella sua connotazione negativa non è nelle corde di nessuno, e invece, come dire, l'utilizzo virtuoso di questi beni. Ripeto, i beni devono rimanere in capo allo Stato, ma devono essere poter gestiti con criteri imprenditoriali, in maniera che appunto poi quello che si guadagna da quella gestione dia vita ad una occupazione qualificata, ad una occupazione anche appunto dei giovani. Lei prima appunto diceva: questo non è un paese per giovani. Voglio dire, ecco, voglio aggiungere una cosa. L'altro punto che secondo me sarà dolente all'interno di questo progetto sarà la burocrazia. No, anche perché mi lasci dire che tutti, sì, no, non solo io, ma Alberto Custodero, che ha scritto oggi su Repubblica la pagina, dice: mia prima sorpresa è vedere che delle migliaia di siti che ci sono in Italia in queste condizioni, perché purtroppo questa è la stima, solo 13 sono state scelte in totale dalle sovrintendenze locali, di cui nessuno al sud. Quindi, come dire, il giornalista di Repubblica dice: vabbè, come è evidente, è la struttura del ministero che diffida per prima oramai di questo strumento, se ne indica solo 13, rispetto alla quale poi la metà non ha avuto nessun tipo di interesse e di risposta al bando. Lei diceva la burocrazia, ma quello è un punto evidente. Alle prese, voglio dire, con come dire, l'anticorruzione, trasparenza, tutti, è un delirio totale quello che ci troviamo ad affrontare in questo settore, un delirio assolutamente privo di senso, e la maggior parte si scoraggia ancora prima di cominciare, si scoraggiano le imprese, voglio dire che infatti sono pochissime quelle che sono all'interno di questo, chiamiamolo così, mercato, ma insomma non c'è il mercato non evidentemente, è. Non è. Perché le assicuro che tutti gli inadempimenti che si devono fare, i giovani non ci si avvicinano nemmeno, si ritraggono terrorizzati. Allora, io intanto ringrazio Patrizia Sprone, abbiamo un minuto di informazioni sul traffico e poi sentiamo l'opinione diversa, immagino, però bisogna ascoltarle tutte le campane, purtroppo non più di due, visto il tempo che abbiamo a disposizione, del segretario nazionale del coordinamento delle funzioni pubbliche e beni culturali. Tra un minuto. La versione di Oscar. Ed eccoci qui tornati in studio in diretta. C'è purtroppo, mi pare, un aggiornamento, Laura Bettini. Sì, un aggiornamento che viene dalle pagine del Centro, che è il quotidiano locale di Pescara, che riferisce di 4 persone estratte morte dalle macerie dell'albergo. Sapevamo di 3, c'è anche la quarta, insomma manca una conferma ufficiale, però come fa notare il Centro, insomma non si parla nemmeno di feriti al momento, quindi purtroppo è più probabile questa versione del quarto decesso. E tra i 30 e i 35 sono i dispersi, quindi avremo da che aspettare. Sì, avremo ore e ore di purtroppo drammatica attesa, nella speranza, però effettivamente i segnali mancano, ecco, per così dire, di feriti. Sì, certo, gli addetti ai lavori dicono che si può sempre essere creata una sacca d'aria, però speriamo che sia stato così. Speriamo, qualunque cosa uscisse, ovviamente la linea è tua. Allora, dopo aver sentito il parere del presidente di Confcultura, le imprese private, quindi fine di lucro, che agiscono nel settore e che dicono questa norma per la messa a reddito dei restauro, gli interventi, insomma, dei siti del patrimonio culturale italiano individuati dal MIBAC e offerti in bando ai privati, però solo non a fine di lucro per le onlus, non funziona, come è evidente da questo primo esperimento dopo 20 anni. Che dice Rinaldo Satolli, invece, il segretario nazionale appunto della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche dei Beni Culturali? Quella legge lei la difende o crede che quando noi obiettiamo, io e Patrizia Sproni, qualche fondamento alla luce di questo esperimento ce l'abbiamo? Guardi, io non voglio sorprendervi, ma per la prima volta io sono perfettamente allineato con quanto appena detto da Patrizia Sproni, che saluto, ci siamo sentiti qualche volta per telefono. sono sulla stessa lunghezza d'onda, perché noi addetti ai lavori sappiamo quanto è difficile inserirsi nel nostro mondo e quanto norme, lacci e lacciuoli impediscano ai privati di intervenire. Qual è l'elemento che può eventualmente, su quale io magari posso soffermarmi in maniera diversa, sì, da quanto abbiamo già detto, certo, da quanto detto dalla Patrizia Stroni? Il tema è perché, per esempio, sono state individuate così poche realtà. Che sorprendente, allora, o no? Intanto la cosa deriva dalla fatto che la ricerca è stata affidata ai segretariati regionali, sì, che hanno una sorta di compiti di coordinamento nel nostro settore. Sì. Quello che purtroppo l'opinione pubblica non conosce è il livello di sofferenza che stiamo ormai vivendo da alcuni anni per quanto riguarda risorse organiche, cioè vale a dire si susseguono riforme, vengono calate dall'alto per volontà politica. Alcune addirittura, guardi, mi spingo a dirle che possono essere condivise, ma il problema è che c'è questa forma di ipocrisia politica per cui le riforme si fanno a costo zero e con organici insufficienti, tale per cui noi poi ci troviamo in una situazione gravissima come quella che adesso emerge come una punta dell'iceberg, cioè il bando per queste, sì, concessioni. Io le faccio una sola osservazione che però serve ai nostri ascoltatori, ma mi interessa anche capire poi cosa ne pensa lei, perché per esempio il ministro Franceschini giustamente si fa vanto di aver trovato le risorse per il cinema che erano in via di taglio. Io ricordo chi ci ascolta più o meno il fondo generale per lo spettacolo, il cosiddetto FUS, era 400 rotti milioni e si doveva ripartire tra tutte le attività di sostegno allo spettacolo, quindi non solo il cinema, le fondazioni liriche, i teatri eccetera eccetera. Per il cinema, sommando tre diverse cose, siamo arrivati al totale delle equivalente di quel FUS, di cui al cinema andava il 18-19%. Quindi quando vede Satolli la politica però le risorse le trova, perché per perfetto, il cinema le ha trovate. Questo è il punto, proprio questo è il punto. Intanto noi abbiamo questa distinzione netta tra quelle che sono le cosiddette arti e il FUS. E da sempre il FUS, ma lo dico senza invidia, magari ci fossero le medesime risorse per il settore delle arti, ma quel settore lì da sempre ha un'attenzione maggiore. Chissà come mai. Vabbè, questo poi io non mi so. No, nemmeno io, mi limito a dire che quando si vuole, anche nelle difficoltà. Quando si vuole, infatti. Il tema poi è rispetto al coinvolgimento dei privati, che come addetti del settore pubblico, siamo stati, come dire, abbiamo anche sdoganato culturalmente il concetto. Meno male. E il tema è un altro. Rafforziamo però il settore pubblico per poter garantire a tutti i cittadini italiani un corretto monitoraggio, il rispetto delle regole, il rispetto delle prescrizioni tecniche, dei disciplinari, e così affidare serenamente ai privati, che spesso hanno capacità e motivazioni superiori a un pubblico che è demotivato. Io devo dire la verità, sono, non è che sono sorpreso, sono convinto che quello che lei sta ma non sono affatto sorpreso, perché sono constatazioni di fatto. Se chi si occupa da sempre di queste cose è come negare la realtà. Oltretutto mi permetto di aggiungere, con quello che sta succedendo nel centro Italia da agosto, ottobre, adesso con il sisma, stiamo parlando di un'area in cui l'intensità del patrimonio e il suo rilievo storico-culturale, patrimonio pubblico, ecclesiastico, come fa lo Stato lì? Cioè, non ce la faremo mai. Non esatto. Ce la faremo mai, anche perché c'è anche un problema con i tour operator, con le infrastrutture. Cioè l'Italia purtroppo viene venduta all'estero dai tour operator tre giorni turisti che fanno. Ma infatti è così. È per questo che noi abbiamo tanti turisti con la metà della permanenza media, e questo significa naturalmente meno reddito e così via. Allora, infatti, la conclusione è: Casa Italia, per capirci, che sembrava la straordinaria autostrada imboccata a ottobre, poi c'è stato il referendum, ce la siamo tutti un po' persa per strada, deve essere un grande progetto, una grande piattaforma pubblico-privata, in cui questo compito, che diventa il compito prioritario, messa in sicurezza del patrimonio italiano e delle aree urbane e delle cittadine che sono a rischio sismico idrogeologico è l'equivalente della ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale, ohimè. E quindi, a cominciare da questo bando, riflettiamo. Oggi abbiamo provato a darvi una riflessione, cari ascoltatori, in cui voci diverse però dicono: no, qui dobbiamo trovare standard pubblici, non c'è dubbio, vigilati da tutto il personale e competenza necessaria, però piantiamola lì di dire che sono le onlus e non le imprese, perché qui servono molti soldi che devono ricavare poi un frutto, oltre ad assicurarci un miglior patrimonio per tutti. Grazie ai nostri ospiti, continuate su Radio 24 e naturalmente con i nostri colleghi della redazione giornalistica del GR di Radio 24, che continueranno sempre a tenere informati. Tra poco.